milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro. È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguarnita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. Spuntati la cresta, che lo sai che il presidente ha detto che ti devi spuntare la cresta. No, ma ha detto basta che segni e poi va bene. Mi pare giusto così. Franco Fiantanida, autore di questa trasmissione, Roberto Scaltritti in regia. Come al solito non ne azzecchi una. Milan qualificato prima della Juve, sei solo un gobbo, mi scrive un ascoltatore via sms 349-238-6666. Gobbo non sono, né juventino né per il resto, peraltro. No, momentaccio per i nostri illustri emigranti della panchina. Di Matteo, rimpiazzato da Rafa Benitez, accolto non benissimo peraltro dai tifosi del Chelsea, mentre ci sono bestie, come avete sentito anche nel giornale radio, che girano purtroppo libere per Roma, speriamo finiscano al loro posto, cioè in gabbia. Al Chelsea hanno chiamato Benitez, the specialist, di che cosa? Del mondiale per club, magari ne vince un altro arrivando lì di rincorsa. Spalletti ha fatto un regalo al Milan, Mancini, al quale Mourinho non ha risparmiato un secchio di ironia, ma che questo Manchester City non è pronto per l'Europa con i giocatori che ama, non scherziamo. Passa Ancelotti e ci mancherebbe, ma soprattutto, e da qui partiamo, passa il Milan, addirittura per la matematica prima della Juventus, con ovviamente il piccolo faraone, anzi non è più piccolo, è grandissimo, 10 gol in campionato, 2 in Champions League, l'anno scorso il fatturato di Ibra era 5 più 3, tanto per la cronaca, passa con un gol incredibile di Pippo. Pippo una volta, il Pippo di Coppa era Inzaghi, adesso è un altro, molto meno probabile. E qui c'è un gol meraviglioso di Mexès in rovesciata. Un gol fantastico! No, niente di che, ho provato, mi è andata bene, cioè sono felice, ma cioè, è stato casuale. Non è che hai visto il gol di Ibrahimovic con la Svezia e ti sei ispirato a lui? No, ma Ibra è un fenomeno, io ci ho provato, mi hanno detto bene e quindi no, è andata dentro. Sì, sì, no, ma è bellissimo, questo non l'ho rivisto ancora, ma le sensazioni che ho avuto sono state bellissime. Per un difensore fare un gol del genere non mi è mai capitato, quindi sono molto... Lui è talmente pazzo da riuscire a fare gol del genere. Intanto però controlli al ginocchio, esami di controllo, non al ginocchio per Mexès, per lo stesso Mexès e per il solito Pato. Sì, anche per Mexès al ginocchio, ricadendo dopo un salto nel colpire di testa al pallone. Pato, che ieri si è visto, ha segnato un gol facile, ha rivendicato maggior presenza, ha chiesto minuti, ha chiesto di giocare, intanto si è fatto di nuovo vivo il dolorino al ginocchio e per giocare però deve essere un giocatore di pallone. Altro argomento molto sensibile di oggi, quindi lo sbrighiamo subito in questa giornata di campionato, la 14ª, che sarà sbriciolata in maniera secondo me insopportabile, si giocano 2 partite lunedì, 1 martedì, ma va a sapere. Comunque l'argomento molto sensibile che vi interessa molto, voi amici ascoltatori, tutti convocati 800 24 00 24 ogni giorno e in massa per giocare, per entrare subito in campo. Allora Rizzoli arbitrerà Milan-Juventus domenica sera. Per l'Inter, altra squadra monitorata, sorvegliata, speciale, forse sull'orlo di una crisi di nervi con gli squalificati, con sempre una solita certa inclinazione al vittimismo che è tornata a farsi sentire. Ebbene, Parma-Inter per Banti, vi va bene, amici interisti? Se non vi va bene, è Banti lo stesso. Cagliari-Napoli, lunedì alle 19, Giannoccaro D'Amato sarà l'arbitro di Torino-Fiorentina. Questo è Allora, vedo una agenzia che riguarda le bestie di qui sopra, cioè quelle che girano per Roma e che spero, come ho detto prima, finiscano al loro posto, cioè in gabbia. I tifosi della Lazio non c'entrano niente con quello che è successo stanotte a Campo dei Fiori. Claudio Lotito, presidente biancoceleste, non mostra dubbi, anzi nel preannunciare una nota ufficiale per il pomeriggio rilancia: sui veri responsabili ci saranno sorprese. Io so solo che sono bestie e spero finiscano in gabbia. Alessandro da Biella, primo. Ernesto da Milano, secondo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Dica. Senta, proprio in merito alla questione ultra, il presidente Lotito dice che saranno puniti come andranno puniti, no? Ho capito bene? Il presidente Lotito, non ho capito, mi ripeta per favore. Io non ho capito adesso, 30 secondi fa, cosa ha detto del presidente Lotito, perché... Dunque, del presidente Lotito, glielo ripeto, non ci siamo intesi, Lotito ha detto che i tifosi della Lazio non c'entrano niente con quello che è successo stanotte a Campo dei Fiori, con questo assalto al pub. Io ricordo soltanto che però c'entravano all'andata, visto che la Lazio è stata multata di 40.000 euro per cori razzisti all'andata Tottenham-Lazio, quindi lì c'entravano, la multa è arrivata, dunque questa volta vedremo. Va bene, ma volevo dire, visto che sappiamo tutti che comunque c'entrano i tifosi, gli ultra, le frange ultra, poi c'erano della Lazio, della Roma, dell'Inter, della Juve, del Toro, per carità, dell'Atalanta, c'entrano le frange ultra, sarebbe un segno positivo da parte del presidente della Lazio non far giocare la partita, dire va bene, i tifosi della Lazio hanno provocato questo, diamo un segno o facciamo qualcosa affinché facciamo capire alla gente che se succedono queste cose dobbiamo anche il calcio si ferma. Perché così sono sempre belle parole, sì, che i presidenti, che le società fanno, ma nessuno poi mette in pratica quello Non è nei poteri del presidente della Lazio non giocare, decidere unilateralmente di non giocare la partita. Ripeto, io sono convinto che invece i tifosi, gli ultra della Lazio, c'entrino, e così come c'entravano l'andata. Vediamo quali sorprese ci saranno, dice Lotito, sui veri responsabili. Sembra evidente, perché lo dicono tutti, è stato, l'abbiamo detto anche nel giornale radio, che la componente razzista, che è la più bieca di tutte, c'entri qualche cosa. Ripeto, ci sono bestie in giro per Roma, non so se con o senza sciarpa, e spero finiscano in prigione, finiscano in gabbia, neanche in prigione. Ernesto, Milano. Buongiorno. Salve. Signor Genta, grazie per farmi dire la mia. Ascolti, io sono un tifoso milanista. Sì. Premetto che ieri sera l'unica cosa che mi è piaciuto è il risultato, perché sì, ha ragione. Penso che se andiamo domenica a giocare contro la Juve così veniamo a casa distrutti, non rotti, distrutti. Seconda cosa, piccoli progressi secondo me del Milan. Sì, ma non basta progressi. Per giocare contro la Juve così ieri sera, non basta secondo me. Seconda cosa, di patto sono rimasto allibito alla sua dichiarazione in diretta. Insomma, io sono un tifoso che l'ha sempre difeso, continuo a ritenere che può essere potenzialmente uno dei più grandi giocatori in giro, però lui deve dimostrare quando entra, cioè il posto da titolare se lo deve guadagnare, perché sicuro. tutte le volte che entra mi fa arrabbiare. Però a prescindere deve stare in piedi, perché mi sembra che negli ultimi anni il problema sia questo. Anche oggi rivendico minuti, parlerò col mio agente, sì, però se ragazzo mio, se anche oggi va in clinica a fare gli esami al ginocchio perché non sta in piedi, diventa un po' difficile far giocare uno zoppo, no? Quindi questo è quanto, lei ha ragione. Tutti convocati. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Una cosa meravigliosa quella di El-Shaarawy ieri, perché i gol così li fanno solo quelli che hanno qualcosa di non comune. Due chiacchiere, ancora sul Milan con Franco Ordine, che ringrazio, inviato del giornale. Ciao Franco. Eccomi qua, buon pomeriggio. L'Anderlecht è una piccola cosa, anche se so che i milanisti si arrabbieranno, però è un dato di fatto. Il Milan fa pesare il suo faraone, che apre la strada, la meravigliosa follia di Maxels. Qualche piccolo passo in avanti. Pato che segna un gol facile, si lamenta perché vuole più minuti, e intanto oggi è già in clinica. Intanto due cose. La prima, che insomma è un Milan dalla doppia vita, e le persone dalla doppia vita non sono molto affidabili, molto rassicuranti, perché primo tempo inguardabile, secondo tempo entusiasmante. Pato, secondo me, è un ragazzo come dire, che andrebbe aiutato, avrebbe bisogno di uno staff vicino che lo indirizzi, che gli dia l'imbeccata giusta e che gli faccia dire le parole giuste nell'occasione giusta. Ieri sera non poteva e non doveva rovinare il clima di una serata finalmente spensierata come quella vissuta dal Milan per la qualificazione in anticipo di un turno rispetto alla scadenza naturale, con quella frase sul suo futuro. Sì. Quanto al giocatore del momento, El Shaarawy, le cifre sono pazzesche, le sai anche tu. Il doppio dei gol di Ibrahimovic in campionato a quest'ora, 3 contro 2 per Ibra in Champions League, ha segnato anche in nazionale. Ma quello che dico è la qualità delle cose che riesce a produrre, perché cross teso di De Sciglio, con tutta la naturalezza del mondo, mette per terra il pallone, un pallone molto difficile, con un piede, e lo piazza con l'altro. Sono gol che fanno, come dicevo prima, quelli che hanno dentro qualcosa in più. Sì, io l'unica cosa che correggerei della tua descrizione è il cross teso, perché mi sembrava veleggiato, ma può darsi che il mio ricordo ottico sia stato ingannato. La cosa che aggiungo di questo ragazzo è che ieri sera nel parlargli gli ho fatto i complimenti, perché non per il gol, ma per aver dato la palla comoda a Pato, per far fare gol a Pato, così come l'ha servita comoda a Pazzini contro il Chievo, a dimostrazione che questo ragazzo ha anche, oltre che l'istinto del killer, ha anche la generosità necessaria. Un'ultima cosa, non mi pare il caso di enfatizzare troppo Milan-Juventus di domenica sera, che è stata in altri tempi e con altre tensioni probabilmente partita ben più importante. Ora la differenza è troppa, a mio parere. Arbitrerà Rizzoli. Sì, arbitrerà Rizzoli, e già lo si immaginava, perché lo avevano, diciamo, tra virgolette, preparato, nel senso che preso di arbitrare sia il Milan che la Juve le ultime due domeniche. Spero che sia all'altezza della situazione. Ho qualche dubbio, qualche perplessità, ma non legata alle famose polemiche della Juve sul conto della Juve, ma ho qualche perplessità legata proprio alla capacità dell'arbitro di gestire partite così importanti dal punto di vista nervoso. La differenza in questo momento è stratosferica. Se il Milan dovesse concedere quello che ha concesso all'Anderlecht nel primo tempo e al Napoli nel primo tempo, evidentemente la Juve passa comodamente sul Milan. Deve fare una partita insomma quasi senza errori, quasi. Grazie Franco, buon lavoro. Okay. Grazie. 800 24 00 24, e siete tutti convocati come Roberto da Fidenza. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie di avermi convocato. Grazie a lei. Posso dire due cose su Leo Messi? Può dire quello che vuole. Guardi, i paragoni, io sono sempre un po' contrario ai paragoni. Comunque, dal 70 in poi, da quando io ho potuto vedere il calcio, e con tutte e due cose, io sinceramente a 25 anni uno come Messi non l'ho mai visto, e non so, e anche l'anno scorso ho sentito una trasmissione di Garanzini, sì, anche lui sta dicendo che sta mettendo la freccia per superare Maradona. Io sono concorde con quello che diceva Garanzini. Per me, ragazzi, o non facciamo paragoni, perché è anche difficile veramente. Ma io non li farei. Io non so cosa deve fare ancora per essere il numero uno a 25 anni di tutti. Quando poi avrà finito la carriera vedremo, magari sì, non lo conto. So, no, ecco, io, per carità. Roberto, io sono, mi divertono molto, però sono abbastanza contrario ai paragoni. Ai paragoni epocali, cosa deve fare per superare Maradona? Fare quello che Maradona è riuscito a fare con la maglia dell'Argentina. Non dimentichiamo che Maradona non ha giocato l'intera carriera in quella che è la squadra più forte del mondo, ma ha giocato nel Napoli, E lì ha fatto la differenza, ha fatto la differenza non da solo, perché poi il Napoli è diventato uno squadrone, con la maglia dell'Argentina è riuscito a fare la differenza da solo. Ecco, per il paragone definitivo, totale, io aspetto che Messi faccia qualcosa del genere con la camisetta albiceleste, anche se i tempi sono ovviamente diversi. Allora, parlavo prima di allenatori, dei nostri illustri emigrati della panchina che stanno vivendo un pessimo momento. Una competizione difficile, perché abbiamo preso probabilmente il peggior gruppo, siamo stati un po' sfortunati lì, abbiamo fatto qualche errore nelle prime tre partite, in Champions League non puoi permetterti di sbagliare, perché poi non, soprattutto in un gruppo come questo non hai più tempo per recuperare. Io sono deluso perché siamo andati fuori da questo gruppo che doveva continuare in Champions League, ma noi sappiamo che siamo una squadra che comunque è insieme da due anni e mezzo circa, e dobbiamo migliorare probabilmente. Sei fuori. Ecco il cross, Danny, tutto solo, Danny! 2-1! Faizulin, tratta bene il pallone, prova a passare, ci riesce Faizulin, il cross verso Kerzakov, prolungato, il pallone Bistroff. Bistroff, poi Danny! Cosa ha sbagliato Danny? Pallone ancora vivo, il tiro al gol di Viktor Faizulin! All'86esimo, il 2-2 di Viktor Faizulin! Fuori, sei fuori! Beh, sai, quando sei allenatore di una grande società come questa è normale che ci sono le critiche se i risultati non vengono, però la pressione già dall'anno scorso, dovevamo in un momento molto particolare tirar fuori i migliori risultati che potevamo per questa squadra, e siamo, grazie alla vittoria l'anno scorso, quest'anno siamo in questa competizione. La speranza c'è ancora, perché comunque matematicamente noi possiamo ancora qualificarci. Fuori, sei fuori. Fuori, tutti fuori. Mancini che cerca scuse e alibi. Non esiste il fatto che una squadra come il City non sia pronto per il, quantomeno per il passaggio del primo turno in Champions League per due anni consecutivi, non esiste. Fuori lo Zenit di Spalletti, fuori Di Matteo dal Chelsea, e questo secondo me ha qualche spiegazione in meno. 800240024 è il vostro numero, Eros, provincia di Venezia. Sì, buongiorno. Bentrovato. Buongiorno, ieri ho visto la partita del Milan, indipendentemente dalla prestazione che state già commentando. Quello che mi ha un po' stupito, oltre alle dichiarazioni di Pato alla fine, è che dopo il gol che gli hanno regalato, non ha nemmeno ringraziato il compagno. El Shaarawy. Esatto. Beh, sì, questo insomma, secondo me non è... Denota il fatto che è un po' fuori dalla squadra, o tanto fuori, dal gruppo e dalla squadra. E d'altra parte, insomma, questo è un lungo degente. Pato non ha mai giocato nelle ultime stagioni, è un giocatore secondo me potenzialmente straordinario, ma ormai la differenza scavata dagli infortuni tra la potenza e la sostanza è talmente elevata che è diventato quasi un oggetto misterioso. Poi mi sembra assolutamente fuori luogo chiedere spazio e minuti quando ancora oggi sei dal dottore a fare i controlli al ginocchio, quando evidentemente ancora non stai bene, quando c'è un giocatore come Shaarawy che in questo momento sta facendo, un tuo compagno che sta facendo la differenza e che ti regala un gol solo da spingere in porta. Quindi tutte cose fuori luogo. Troppo facile, prosegue lo Tito, parlare di aggressione realizzata da gente a volto coperto e dire che si tratta di tifosi razziali. Non è così. Lo sapete, ad esempio, che tra questi folli delinquenti da punire in maniera dura c'erano anche tre stranieri. Ribadisco, conclude lo Tito, i razziali non c'entrano. Mi importa abbastanza poco, non ci credo poi molto. L'importante è che le bestie in giro per Roma finiscano in gabbia. 800240024, siete convocatissimi dopo la borsa. Meno pensiamo e più siamo forti. Sempre ed ogni giorno qui su Radio 24 per parlare di sport. di ogni sport. Tra poco mi attendo un campionissimo che col calcio non ha nulla a che fare, non ve lo anticipo naturalmente. Tanto sto guardando una grafica che sta passando Sky che rischia di far girare la cresta a El Shaarawy, ormai non più tanto piccolo faraone, perché nella storia del Milan, dopo 13 giornate di campionato, allora ci sono soltanto due giocatori che hanno fatto meglio di lui. Si chiamano Van Basten, 12 reti, e Shevchenko, una volta 12, una volta 11 e una volta 10, proprio come El Shaarawy. Fate voi i vostri conti. Intanto, prima di Paolo Dabelluno, vi do una notizia di oggi. Continua lo spogliarello forzato di Lance Armstrong, quando ai militari levano tutti i gradi. Ecco, gli è stata revocata anche la laurea ad honorem da un'università americana nel Massachusetts, che ha ritirato e stracciato in faccia al truffatore Lance Armstrong questa laurea honoris causa. Chissà cosa possono levargli ancora. 800 24 00 24 è il numero verde, io vi sto aspettando e state arrivando, lo so. Intanto che arrivate, io vi faccio sentire stasera, insomma, dopo le due vittorie in Champions League, ci aspettiamo qualcosa anche dalle squadre di Europa League, con l'Inter già qualificata, ma la Lazio in questa dannata partita con il Tottenham che deve qualificarsi, il Napoli pure, la Lazio è quasi fuori. Prima di Paolo Dabelluno e Domenico da Roma, voci di allenatori, voci di vigilia di Europa League che si gioca oggi. L'Inter è qui con 10 giocatori che hanno meno di 21 anni, che rappresentano il nostro futuro e è la dimostrazione del nostro lavoro sui giovani. È importante nel lavoro incredibile del nostro settore giovanile, da cui io provengo, riuscire anche ad individuare quali altri calciatori possano essere pronti se chiamati in causa. Deve essere per 90 minuti molto attenta, ma anche convinta di proporre il proprio gioco, perché lì è chiave del successo, che noi dobbiamo fare la partita e dobbiamo noi mettere avversario sotto pressione e in difficoltà. Una partita difficile, all'andata ci è andata bene, abbiamo fatto 4 tiri, 4 gol, ma loro hanno fatto un'ottima gara, hanno vinto il PSV, hanno pareggiato l'altra partita, quindi una squadra di valore e in questo momento sta in base ai risultati molto bene e sarà molto difficile per noi. Stramaccioni, Petkovic e Mazzarri. Paolo Dabelluno, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Zenta. Dica. Io volevo intervenire sui tifosi della Lazio, tra virgolette, no, i delinquenti che girano, i delinquenti che stanno girando a piede libero per Roma. Sì. Secondo me, signor Zenta, questi qua sono codardi, vigliacchi, capito? Presi uno a uno, questi qua si cagano sotto, mi faccio il termine. Sì. Secondo me la posizione giusta non sarebbe neanche mandarli in carcere, questo denunciarli qua. Li prendiamo, li mettiamo in un aereo, li mandiamo a Tottenham, a Liverpool, nelle città dove hanno credito questi poveri ragazzi che erano qua per vedere la partita, capito? E facciamo passare 10 minuti di paura là. Sì, cosa vuol dire essere aggrediti? No, guarda, in branco. No, lo so, io capisco la sua che è rabbia, che è pura rabbia, come rabbia di tutti noi. È chiaro che è una punizione un po' medievale per essere praticabile. Io mi limito a notare, mentre Lotito dice che gli ultra della Lazio non c'entrano nulla, che c'è stata questa aggressione ai tifosi del Tottenham, che è la squadra della comunità ebraica di Londra, che ha un forte legame con la comunità ebraica di Londra. Mi limito a ricordare per la terza volta che la Lazio all'andata è stata multata di 40.000 euro per cori razzisti dall'UEFA. In quel caso è difficile dire che i tifosi della Lazio non c'entrassero. In questo caso stiamo a vedere. Claudio Bologna. Buongiorno. Buongiorno. Guardi, io sono in autostrada, sono appena rientrato da Bruxelles, dove ero per lavoro, e ne ho approfittato per vedere la partita del Milan di ieri sera. Mi sente, sì? Sì, certo che la sto ascoltando. Mi sente? Sì, certo che la sento, Claudio. Dica. Ecco, di, dico, sono rientrato in questo momento dalla partita, sono rientrato, ero per lavoro, e devo dire una cosa, al di là dei commenti che ho sentito, a mio avviso, e lo dico da tifoso del Milan, il Milan ha fatto una partita mediocre. Sì. Una squadra abbastanza passiva, che ha avuto la fortuna di giocare con una squadra ancora più mediocre. Ha fatto un pessimo primo tempo contro una squadra che non vale molto, una buona ripresa. Guardi, la sensazione è che l'Anderlecht avesse finito la benzina, perché ha pressato molto nel primo tempo. Il secondo tempo la squadra è molto modesta, molto molto modesta, è stata molto vicina a non perderla questa partita. Sì. Ma è una squadra, e credo che, come dire, dopo l'espulsione, a quel punto ci si è trovati a giocare 10-10, perché il povero ragazzo Pato Pato, intanto mi correggo, ancora problemi alla coscia, non al ginocchio per Pato, problemi muscolari, quindi è per accertamenti in clinica. La sua sensazione credo sia stata quella corretta, caro Claudio da Bologna, che era allo stadio di Bruxelles ieri sera. Intanto io saluto e ringrazio un campione del mondo convocato in tutti i convocati e che domani torna in pista, Alessandro Pittin, il re della combinata nordica. Ciao Alessandro. Ciao. Come stai? Ma diciamo che sto abbastanza bene, insomma. Rientro dall'infortunio, quindi speriamo di cominciare bene la stagione, anche se non sono ancora in forma. Sì, quella spalla è a posto? Sì, ormai è quasi del tutto a posto, sto continuando con la terapia, con la riabilitazione, perché il movimento non è ancora del tutto recuperato, però riesco comunque a fare tutto quello che devo fare, a sciare, a saltare, quindi per adesso va bene. Senti, leggo sulla Gazzetta dello Sport di oggi una tua lunga intervista. Io e Lamy, il francese che tu hai battuto in casa sua l'anno scorso, come Vettel e Alonso, io credo che tu debba partire proprio per queste ragioni, insomma, debba stringere i denti nelle prime gare stagionali come ha fatto Alonso con la Ferrari, riuscendo però a conquistare grandi risultati. Sì, quest'anno per me sarà un po' un inizio difficile rispetto agli anni passati. Arrivo qua senza nessun riscontro con gli avversari, quindi non so neanche a che punto mi trovi come condizione e come livello rispetto a tutti gli altri. Si vedrà sabato in gara, durante la prima gara, speriamo bene, poi insomma ci fermiamo un attimo, ci prendiamo 15 giorni di pausa e riprendiamo a metà gennaio in Austria, sperando di arrivare un po' più preparati. Cosa temi di più in questo momento, come frazione di gara? Ma guarda, non ho raggiunto una un buon livello, una buona condizione sul fondo, quindi non so a che punto possa essere, come possa reagire in una gara di 10 km, quindi per me è un po' un'incognita. Sul salto le condizioni, cioè, qua non sono proprio bellissime in Norvegia, dove faremo le prime gare, però insomma io ce la metto tutta, le sensazioni al trampolino sono abbastanza buone, ho ritrovato una buona fiducia, anche diciamo, un buon controllo sugli sci e su tutto per la prima parte di volo, che mi ha dato problemi un po' l'anno scorso, e quindi spero di far bene. E domani ti aspettiamo. Senti, non posso che chiederti, dopo questo paragone, chi vince tra Vettel e Alonso il mondiale di Formula 1 secondo te? Ma io spero che ci possa essere battaglia fino alle ultime curve, sarebbe bello vedere appunto un po' un mondiale giocato fino alla fine, però credo che in questo momento la Red Bull sia nettamente superiore, e mi fa anche piacere perché comunque da quest'anno sono entrato a far parte di questo bellissimo team e penso che anche Vettel sia un ottimo pilota, quindi per Alonso è ormai difficilissimo. Grazie, ti aspettiamo domani in pista. Grazie, in bocca al lupo, Alessandro. Grazie. Grazie, grazie Alessandro Pittin, campione del mondo di combinata nordica, che domani ricomincia la sua avventura, che ovviamente non può che portare verso Vancouver, anche se è ancora molto presto. Svegliatevi, perché questa è l'ora delle convocazioni, 800240024 per parlare di sport, come avete sentito con Pittin, non solo di calcio. C'è chi su Twitter, a proposito, agganciatevi, non so se si dice così, io che non sono un twitterist, buh, no, seguiteci su Twitter, seguiteci in massa su Twitter. C'è chi scrive che è medievale anche dire, come ho detto io, che meritano di finire in gabbia come le bestie, queste bestie che girano per Roma. Beh, che di bestie si tratti è indubbio, poi può bastare la prigione, che pure di gabbia si tratta. Luca da Monza, buongiorno. Però che ci finiscano davvero, con la serratura chiusa. Pronto? Bestie. Dica. Buongiorno, io telefonavo perché volevo parlare del mondiale di Formula 1. Sì. E volevo semplicemente dire che se vincesse Alonso sarei molto felice. Ma purtroppo temo che se non fosse stata per la sua abilità non saremmo arrivati neanche a 2/3 del mondiale ad essere ancora in corsa per il titolo. Concordo in pieno. Io rimpiango la Ferrari del recente passato di Raikkonen e Massa, quando avevano carta bianca a vincere entrambi, e alla fine vinse Raikkonen proprio sul photo finish. E l'anno dopo successe l'uguale contrario con Massa nei confronti sempre di... Su questo, Luca, io su questo non sono d'accordo. Cioè, secondo me, ma l'ho detto molte volte, è una questione grossomodo filosofica, secondo me in un top team serve un primo pilota e un altro pilota che aiuta a vincere la prima guida. Massa non ha le caratteristiche per vincere un mondiale, ne ha avuto la chance, ci è andato ad un millimetro, ma credo che quello sia anche il suo limite. Alonso è il più forte pilota del mondo e sono d'accordo nel dire che non ci fosse stato Alonso, la Ferrari mai sarebbe arrivata a giocarsi il mondiale, come speriamo tutti possa fare fino all'ultima curva in Brasile. Naturalmente lapsus mio, mi sottolinea, mi bacchetta subito Silvano, perché è a Sochi che ci saranno i giochi invernali, non a Vancouver, chiedo venia. Mi è sfuggita. Carlo, provincia di Roma. Salve, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, io telefono, seguo spesso la sua trasmissione. Io sono un tifoso della Lazio. Sì. Mi permetto di farle un piccolo appunto. Prima, preso dalla foga, ha detto che la Lazio era quasi fuori dal turno successivo. Forse è stato un lapsus. Non mi pare di averlo detto. L'Udinese è quasi fuori. No, lei ha detto la Lazio. Non voglio polemizzare. Chiedo venia su questo errore mio. Auguriamoci che sia il contrario. Ma sicuramente, questo è evidente. Mi permettevo di farle notare che vedo una particolare attenzione sua, quasi un astio, nei confronti della tifoseria della Lazio, che non è solo rappresentata da queste persone, di questo brutto episodio. No, lei vede un astio da parte mia? No, allora Carlo, intendiamoci, io non ho nessun tipo di astio nei confronti della Lazio e su questo non ammetto repliche, così come non ho nessun tipo di astio nei confronti della gente che va allo stadio a vedere il calcio e che fa il tifo. Io ho un fortissimo astio, anzi molto di più, nei confronti di quelli che vanno in giro a picchiare la gente. Perfettamente ragione. Ecco. Però mi creda, la tifoseria della Lazio nel 99% dei casi non è formata da queste persone. Solo che notavo questo accanimento particolare nei confronti, come se lei volesse generalizzare. Il Tito dice che non sono nemmeno che non sono. No, lasciamo stare. No. Carlo, lasciamo stare le erbe e i fasci. Sappiamo a quale estrazione appartiene una certa parte degli ultra, estrazione politica degli ultra della Roma e della Lazio. Sappiamo che in mezzo a molti tifosi veri girano dei criminali che vanno in giro a picchiare la gente per motivi probabilmente razziali, e io ce l'ho con questi, a morte ce l'ho con questi, ma certamente non ho nulla contro i tifosi della Lazio, contro i tifosi della Roma, contro i tifosi del Napoli. Se volete vi faccio l'elenco di tutte le squadre d'Italia, ma non abbiamo tempo. Non ho nulla contro la gente che va allo stadio e fa il tifo, poi c'è modo e modo di fare il tifo. Io sono per il tifo disorganizzato, cioè sono per quelli che comprano il biglietto e vanno a vedere la partita e fanno il tifo e non hanno alcun tipo di favore, non si nascondono dietro a bandiere, striscioni, gruppi, tesseramenti, eccetera eccetera eccetera. Sono per un tifo civile e disorganizzato, questo sì, e lo sarò sempre. Sono certamente contro i criminali che vanno in giro a picchiare, le bestie che vanno in giro a picchiare la gente. Cristian Bolzano. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare di due sport atipici, se ne parla poco. Sono il nostro forte. Volevo parlare del rugby, della... rugby tanto atipico, magari, tanto atipico non è. Sì, se uno non aggancia la trasmissione giusta non se ne parla. No, noi lo facciamo spesso, l'abbiamo sempre fatto da anni. Infatti la vostra trasmissione da questo punto di vista in effetti è molto aperta. Ma vi voglio dire, è solo per dire la domenica sportiva, che non ha niente di sportivo, visto che è la domenica calcistica, perché non si parla d'altro. Vabbè, a parte questo, sì, e che non voglio polemizzare, perché voglio parlare di una cosa bellissima che ho visto, sì, che ho visto sabato, una partita in cui abbiamo messo sotto gli All Blacks per larghi tratti di partita, giocando in modo incredibile, soprattutto negli uno contro uno, non facendoci aprire come al solito. E purtroppo non abbiamo i rincalzi all'altezza, per cui a un certo punto. Questo è vero, è finita la benzina. Cambiare. È finita la benzina. Senta, ma secondo lei è stata più soddisfacente questa prova dell'Italia contro gli All Blacks o quella di Milano in cui siamo andati a un millimetro da una meta storica? O a un millimetro dalla concessione di una meta che ci stava e che non ci è stata data? No, nettamente questa, perché abbiamo tenuto il campo per 70 minuti contro una squadra che non è, come si può dire, fuori stagione come allenamento, perché ha giocato diversi test match anche con l'Australia, ripeto, con tantissime squadre, quindi è nel pieno della forma, e noi ci abbiamo giocato alla pari. Come dicevo, avessimo avuto dei rincalzi, soprattutto per il pacchetto di Mischia, sì, avremmo fatto, non dico che avremmo vinto, sicuramente è molto difficile vincere con gli All Blacks, perché comunque hanno non vinci mai, malizia. Non vinci mai, non vinci mai. No, sono d'accordo. No, non vinci mai. Senta, domani torniamo, naturalmente torna tutti i convocati, e domani parleremo un po', torneremo anche sull'argomento rugby, oltre a parlare di basket e naturalmente di pallone con le ultimissime. Io ringrazio Franco Piantanida, autore di questa trasmissione, ringrazio Roberto Scaltretti in regia, tutti voi che siete stati convocati, avete risposto, siete stati convocati e non avete risposto ma risponderete, insomma vi aspetto tutti domani alle 2, ciao. Questa luce sparata sembra usando.